Mi pare il momento adatto per parlare di questo argomento meraviglioso che è la confessione, più gioia in cielo, come tu hai intitolato il tuo libro bellissimo, tutto episodi dal Vangelo. Ecco, mi pare che ho di aver sentito che hai scritto recentemente un altro libro, Don Andrea. Sì, è vero, è uscito proprio in questi giorni. E infatti in questi giorni sta arrivando nelle librerie, sempre per le edizioni Paoline. È un libro, diciamo, è un commento ai misteri del Rosario. Oh, Sono, benissimo. ecco, si intitola Contemplare Cristo con gli occhi di Maria e il sottotitolo è I misteri del Rosario meditati. Certo, è vero che usi lo stesso metodo che usi nell'altro libro, vero? Esattamente, sì, perché in effetti io quando è uscita la lettera del Papa sul Rosario il 16 ottobre, poi io l'ho usata subito per la predicazione, Certo. poi però mi sono reso conto che la gente aveva bisogno anche di un aiuto per poter fare quello che il Papa dice in quella lettera. E così hai preparato questo sussidio bellissimo. Sì, infatti, io ho fatto in modo che per ogni mistero, ognuno dei 20 misteri, ci siano sette brevi proposte, cioè un piccolo brano del Vangelo o della Sacra Scrittura, e poi la meditazione, e poi alla fine, come il Papa suggerisce, una breve orazione che riassuma il significato di quella meditazione, di quel pensiero. Certo, che bello. Allora vuol dire che una delle prime copie ne farai omaggio anche a me. Ecco, senz'altro, promesso, te la mando Volevo. sicuramente. Ripeti il titolo? Dunque, si chiama Contemplare Cristo con gli occhi di Maria. I Ah. misteri del Rosario meditati. Poi in copertina c'è una bellissima volto di Maria che anche questa è una tavola di Salvatore Fiume che guarda Gesù che appare a lei dopo la resurrezione. Senti, dunque allora. Dunque, contemplare Cristo con Cristo gli con gli occhi di occhi di Maria. Maria. Ecco, questo adesso l'ho già memorizzato. Ecco, Edizioni Paoline, edizione Paoline, che sì. si trova in qualunque libreria delle Paoline, Sì, dovrebbe proprio anche esserci. librerie cattoliche in genere. Penso proprio di sì, sta Benissimo, arrivando in questi giorni. benissimo. Don Andrea, di cosa ci parli adesso? Ma io, come tu mi suggerisci e mi chiedi, penso di continuare il discorso sulla confessione e soprattutto quest'oggi non prenderò un brano unico quest'oggi, ma invece alcuni brani del Vangelo che possono aiutare noi sacerdoti ad incoraggiare le persone ad accostarsi a questo sacramento. Benissimo, hai una ventina di minuti abbondanti. A Perfetto, te la parola. allora comincio. Guarda, in realtà io volevo cominciare con una premessa, perché so che in questi giorni il Papa sta incitando tutti a pregare per la pace, fra l'altro questo è anche un obiettivo proprio dell'anno del Rosario, e anche proprio in questi giorni, nella festa della Madonna di Lourdes, ecco, si sta pregando molto per questa intenzione. E allora, proprio riflettendo su questo argomento, pensando che dovevo parlare della confessione, mi è tornato alla mente un episodio che nella sua drammaticità è anche molto luminoso, che io ho sentito raccontare proprio quando ci fu l'attacco alle due torri di New York 2 anni fa. E io sentii raccontare da uno dei parroci di quella zona, di Manhattan, che appunto dopo l'attacco lui corse verso quella zona e lì trovò molti di quei pompieri che erano appena arrivati e volevano salire sulle torri e vide che uno si stava confessando con il suo cappellano. Poi un altro pompiere vede che sta arrivando lui, vede un prete. Allora si lancia verso di lui chiedendogli pure il sacramento della riconciliazione e subito viene un altro e poi un altro, veramente sono tanti e c'è una fretta terribile di poter salire sulle torri per spegnere quell'incendio. E allora lui in quel momento pensa che è proprio una di quelle circostanze in cui si può dare la soluzione generale, e ricorda loro che passato il pericolo dovranno poi confessarsi in modo personale e gli dà la soluzione. E quei pompieri corrono dentro le torri dove purtroppo troveranno la morte. E poi sempre questo parroco raccontava che nella stessa mattina a un certo punto entra in una di quelle chiese tra le più vicine alle torri e e trova purtroppo proprio il corpo di questo cappellano dei pompieri che era stato ferito mortalmente mentre confessava uno dei suoi pompieri. Questo è quello che mi hanno raccontato, e che anche c'erano molti sacerdoti che sono accorsi lì proprio per dare questo aiuto del loro ministero. E mi veniva in mente che questi pompieri, proprio in una azione, diciamo così, di odio, di guerra, loro si sono liberati dal peccato e sono riusciti in questo modo a correre verso questo impegno che purtroppo non è riuscito, diciamo, dal punto di vista umano, ma penso che giustamente poi negli Stati Uniti hanno cominciato, questo pure mi raccontavano, a in fondo, ecco, a venerarli come eroi, no? E penso che, e mi è tornato in mente quando ho sentito questo episodio, quella frase del fondatore dell'Opus Dei, e lui parlava della bellissima guerra di pace, no? E lo riferiva alla vita cristiana, alla lotta contro il peccato, no? E lui collegava proprio questa pace del mondo, la pace delle nazioni, come frutto senz'altro della preghiera e della vittoria contro il peccato che ciascuno deve ottenere con una lotta, ecco, con lui ammetteva solo questa guerra, la guerra contro il peccato, quindi in fondo contro se stessi, e aveva questa grande fede nel concepire che questa pace interiore del cuore poi può ridondare nella pace esterna, nella pace dei rapporti umani tra persone e quindi poi tra nazioni. E mi viene in mente che proprio questo sacramento della penitenza può essere anche chiamato sacramento della pace, nel senso che proprio anche noi sacerdoti lo sappiamo bene, nella formula con cui accordiamo la soluzione dei peccati, noi diciamo, ecco, Dio Padre di misericordia ti conceda mediante il ministero della Chiesa il perdono e la pace. E il Papa in una delle sue, dei suoi discorsi sulla confessione diceva che, ecco, questa pace annunciata dalla formula sacramentale è una pace soprannaturale che quindi supera ogni così, percezione umana, però arriva nell'anima anche attraverso, quindi è un dono di Dio, un dono dello Spirito Santo, un dono della grazia, ma anche attraverso la mediazione del sacerdote, quindi della sua personale santità, della sua sapienza, della sua sensibilità psicologica, della sua accogliente umanità. Ecco, quindi metteva in evidenza come è importante, come il frutto della pace, che è un frutto dello Spirito Santo, che arriva in modo efficace attraverso la confessione, però deve essere anche mediato dall'atteggiamento misericordioso del sacerdote confessore. E io penso che noi, anche preparandoci così, anche se un po' da lontano, alla Quaresima che comincerà, noi sacerdoti e anche tutti i cristiani che hanno già fatto l'esperienza di questa pace che il sacramento della riconciliazione dona alle nostre anime, ci proponiamo di incoraggiare altri, di diffondere, ecco, questa dottrina e di aiutare a superare le difficoltà che sono, che ci sono. Noi stessi le abbiamo sperimentate personalmente, le sperimentiamo. Allora pensavo proprio che alcuni brani del Vangelo, con la potenza proprio della parola di Dio, ci possono aiutare ad illuminare le anime. Per esempio, sono brani molto conosciuti, che forse però qualche volta, cioè, non abbiamo applicato direttamente a questo tema. Il primo che mi viene in mente è quella narrazione del Vangelo di Matteo. Dopo aver chiamato Matteo, Gesù siede alla mensa con lui e con tutti i suoi amici, e i farisei lo criticano, come sempre succede: il vostro maestro mangia, perché il vostro maestro mangia insieme con i pubblicani e i peccatori? E io penso proprio che questo mangiare insieme del Signore, apriamo una parentesi, questo con i pubblicani e i peccatori, è un gesto di amicizia, come è importante la realtà umana dell'amicizia, questa grande dimensione relazionale che prepara l'incontro con Gesù nella preghiera e nei sacramenti. Allora Gesù amico, forse anche proprio ai peccatori può dire vi ho chiamati amici, e subito dopo Gesù risponde, infatti con quella famosa frase che conosciamo bene, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque, imparate che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrificio. Allora, è una frase che noi conosciamo bene, no? E non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Allora, però, questa parola di Gesù, detta alle persone che intuiamo, e detta anche a noi quando abbiamo lo stesso problema, che intuiamo, che abbiano questo problema, cioè si sentono così malati, che hanno paura del medico, che hanno timore, che hanno vergogna di mostrare la loro malattia. E abbiamo, io ho questa esperienza personale, l'ho fatta anch'io, nel senso che come penitente, no? E a volte succede proprio che quando il problema è più serio, più grave, quando la malattia è più importante, misteriosamente scatta questo meccanismo per cui c'è timore, quindi si rimanda e sempre più diventa difficile. Allora, questa parola del Signore, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, ecco, applicata, meditata, può aiutare a superare questa difficoltà. Gesù ci aspetta, è venuto per questo, è venuto per i peccatori, potremmo dire, meditando in modo più corretto ancora, nessuno è sano, per questo Gesù è venuto per tutti, tutti hanno bisogno di Lui. E se per caso qualcuno si sente sano, lo sarà per grazia di Dio, perché è un periodo in cui la sua vita interiore, la sua vita di cristiano è più facile, pensi che allora lì può applicare la medicina preventiva, incontrarsi con Gesù anche nel sacramento della penitenza, anche per piccole mancanze, perché questo rinforza la nostra anima e rinforza la nostra salute spirituale. E il secondo brano del Vangelo che poi ho messo qua nel libro, questo è più difficile a volte pensare di applicarlo alla confessione, ma ho pensato che si poteva fare. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? Ho pensato che queste parole di Gesù, che si possono applicare evidentemente a tutto l'insieme della nostra esistenza, si possono applicare anche al momento, ecco, della difficoltà per andare a chiedere il perdono di Gesù nella confessione. Perché si affaccia in quel momento la tentazione di riservarsi qualcosa, ecco, di non donare quell'aspetto della propria vita nella confessione, di non liberarsi. È un po' il timore, ecco, di spogliarsi di una realtà che è molto intima e che si è legata in modo molto forte alla nostra anima. Però sappiamo che questa realtà, che poi è il peccato, è molto nociva, è come se fosse un cancro che ci consuma. Allora, in quel momento noi dobbiamo avere la forza di perdere, ecco, di buttare fuori, no, quella parte della nostra vita per salvarla tutta. Quindi dobbiamo perdere per vincere. Quando doniamo quella parte della nostra vita che sembra lacerante, ecco, questa operazione, invece apriamo la porta allo Spirito Santo e improvvisamente ci ritroviamo con la nostra vita sanata in mano. È una vita nuova, giovane, pulsante, e quindi con tutta la possibilità di viverla per la gloria di Dio. E io vado avanti, ecco, così per flash, no? Per offrire a me stesso e a chi ascolta l'utilizzazione della parola di Dio per questa tematica: superare le difficoltà nell'accostarsi alla confessione e aiutare altri a superarle. E mi tornava in mente la vita di Maria Maddalena per quello che ce ne narra il Vangelo. Allora, il primo episodio, la prima citazione è di San Luca, capitolo 8, e quando insieme ad altre donne, ecco, narra San Luca, c'erano con lui 12 alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, e Susanna, molte altre, eccetera, che li assistevano con i loro beni. Allora, io ho pensato che questo accenno così molto delicato dei sette demoni che erano usciti da Maria di Magdala, possiamo applicarlo appunto alla guarigione che avviene nel sacramento della penitenza, nel sacramento della confessione. E a volte una buona confessione, soprattutto in un momento importante della vita, nel momento della conversione, può cambiare la vita. E veramente è cambiata la vita di Maria di Magdala, si intuisce da questo brano del Vangelo, e da una posizione di malattia spirituale, possiamo dire così, era posseduta da sette demoni, è passata ad una sequela di Cristo, lo assisteva con i suoi beni, lo seguiva, lo serviva. E una buona confessione può cambiare la vita. Ecco, questo è un ottimismo pastorale che dobbiamo coltivare noi sacerdoti e dobbiamo passare a tutti perché abbiano speranza. Una buona confessione fatta veramente con consapevolezza, con molto amore di Dio, con il dolore che lo Spirito Santo ci ottiene di avere del nostro peccato, con sincerità, con completezza, può cambiare la vita, scompaiono le malattie spirituali e possiamo cominciare subito a seguire il Signore, a servirlo, non c'è bisogno di lunghi tirocini. E tant'è vero che poi Maria di Magdala diventa addirittura l'apostolo degli apostoli, la donna è scelta da Gesù dopo la resurrezione per andare ad annunciare agli apostoli che lui era risorto. E sempre di Maria mi è venuto in mente per un altro aspetto che a qualcuno può interessare molto, a qualche persona che può avere delle ritrosie per andare alla confessione a esporre appunto i suoi peccati e per chiederne perdono al Signore, ecco, è quando Gesù incontra Maria dopo la resurrezione, quando la chiama per nome, solo in quel momento lei lo riconosce. Gesù le disse Maria, essa allora voltatasi verso di lui gli disse in ebraico Rabbuni, che significa maestro. E io, così cercando di interpretare i sentimenti di Gesù, che nel Vangelo non ci sono, ma questa operazione nella nostra contemplazione è lecita, e ho pensato che Gesù in quel momento conosce Maria, ama Maria, la conosce meglio di come addirittura lei stessa si conosce, e meglio di chiunque altro, ma in un certo senso mi azzardo a dire non ricorda i suoi peccati, cioè non ricorda quei sette demoni. Cioè, per lui Maria in quel momento non è quella che aveva quel problema o quei problemi, quei demoni difficili da scacciare. Invece per lui Maria Maddalena è Maria, con quel nome che in un certo senso significa quasi un nome nuovo, è una creatura nuova. La confessione come diciamo secondo battesimo in qualche modo ci rinnova in modo analogo a come è avvenuto in modo totale e unico nel sacramento del battesimo, rinnova quella creatura nuova che noi siamo diventati con il battesimo. E allora il penitente che è tentato di pensare che Dio tiene il conto dei suoi peccati e analogamente che il sacerdote, il suo ministro lo giudica in base ai peccati che dice, addirittura li tiene a mente e questo ricordo continua in qualche modo a costituire un giudizio permanente negativo su di lui, si sbaglia. Invece io penso che questo ricordare il peccato è causa in un certo senso del nostro peccato, noi abbiamo questa esperienza, ma è un'esperienza della ferita, del peccato originale. E quando il consiglio che io do, quando le persone mi manifestano questo e cerco di applicarlo io stesso, quando tornano in mente i peccati del passato, dobbiamo utilizzarlo, questo ricordo, per chiedere perdono di nuovo al Signore e anche per ringraziarlo del perdono che ci ha già accordato, e quindi utilizzarlo come un atto ulteriore d'amore, ma non per perdere la pace, non per lo scrupolo. Ecco, Dio quando perdona il peccato dimentica. Geremia dice che proprio questa prerogativa di Dio equivale a conoscere Dio e dice non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo riconoscete il Signore perché tutti mi conosceranno, perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Io penso che questa, io ricordo da ragazzo che, non mi ricordo perché, forse avevo un problema di questo tipo, parlai con un sacerdote, con il mio confessore, e lui mi disse questo: ma guarda che io, il confessore, il sacerdote, poi dimentica tutto, così come il peccato è cancellato e perdonato da Dio, ecco, il Signore in molte occasioni, non è che si tratta di dare una legge generale, dà questa grazia anche ai sacerdoti, e loro dicono: io ti assolvo, quella mancanza, quel peccato non c'è più, lo fanno a nome di Dio, sanno che devono mantenere un riserbo assoluto, e quindi il Signore li aiuta e loro si ricordano di Maria, ma non dei sette demoni, e si ricordano, o perlomeno sanno solo che sono passati, che sono stati scacciati, che non ci sono più. E ecco, in questo senso io penso che questo incontro del Signore con Maria possa aiutare, e queste parole di Geremia, ad incoraggiare le persone che si fanno, ecco, che hanno timore, perché sappiano che i sacerdoti della nuova legge partecipano di questa magnanimità di Dio. Poi noi dobbiamo impegnarci a far sì che sia davvero così, ma possiamo passare questa esperienza. E dopodiché, ecco, Gesù dice, vi ricordate quando dice, riferite a Giovanni che i ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, è beato colui che non si scandalizza di me. Ecco, tutte queste manifestazioni dei miracoli di Gesù, che manifestano che è giunto a noi il regno di Dio e che non dobbiamo aspettarne un altro di Salvatore, possono essere applicate all'efficacia di tipo prevalentemente spirituale del sacramento della riconciliazione. E per cui noi, nello spiegare, possiamo dire: guarda che, ecco, i ciechi recuperano la vista, cioè questa grazia del Signore che ci arriva nel sacramento ci purifica la visione di noi stessi, ci dà più luminosità nella fede, gli storpi camminano, cioè siamo capaci di andare verso i nostri fratelli, ad aiutarli, a chiedere scusa, siamo arricchiti di forza per lavorare, per il bene, per educare, per insegnare, e viene guarita la lebbra della nostra anima, cioè è molto più facile lottare contro il peccato, e poi riacquistiamo l'udito, perché le parole di Dio hanno una chiarezza nuova quando noi, per esempio, ci distraiamo nella preghiera, non siamo interessati, non percepiamo i richiami dello Spirito Santo. Ecco, dopo questa guarigione del Signore, ascoltiamo la voce di Dio e anche la seguiamo con più rapidità. I morti risuscitano, e poi questo è proprio il caso più importante, quando il peccato è mortale, quindi la nostra anima ha perso la presenza soprannaturale della Trinità, ecco, recuperiamo questa vita trinitaria in noi e questa, quindi, apertura verso la vita eterna. E così Gesù, quando mi viene in mente che si può applicare anche alla confessione, quell'invito così affettuoso, così paterno: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, troverete ristoro per le vostre anime. Quante volte facciamo l'esperienza, ecco, di affaticamento proprio dell'anima, oppressione, ecco, difficoltà, tutti, quindi venite a me voi tutti abbiamo questi problemi, e il sacramento della penitenza è anche per chi è affaticato dal peso delle proprie debolezze, dalle difficoltà della vita, dalla lotta per vivere da cristiani, e Gesù in questo sacramento ci ristora, ci dà forza, e la riconciliazione con lui è riposo, e Gesù sa che è un dovere costoso, infatti si tratta di un giogo da prendere sulle nostre spalle, che però è leggero e soave. Quindi possiamo vedere anche in queste parole di Gesù che ci invitano ad andare da lui anche, ecco, a chiedere il perdono nel sacramento della penitenza. E ultima cosa che dico, l'ultima brano che ricordo, che quando Gesù dice a Pietro: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli, e questa è una parola di una grandiosità tale che qualunque peccatore può meravigliarsi di fronte a questa misericordia di Dio, perché veramente anche il peccato più grande, anche la strage più immane può essere perdonata dal Signore, e allora il penitente rimane strabiliato da questa bontà di Dio, e anche noi confessori rimaniamo costantemente, quando questo può saperlo il penitente, che anche il grande peccatore che arriva alla confessione ci aiuta, ci ricorda questa misericordia immensa di Dio, di cui noi siamo fatti strumenti, di cui siamo contenti di essere stati scelti come strumenti, di essere partecipi anche col nostro cuore al cuore di Gesù che perdona. Certo, benissimo, Don Andrea, è stato bellissimo anche stasera. Non so come ringraziarti per questa bella sintesi che hai fatto da diversi passi evangelici, eccetera. E ora riceviamo volentieri la tua benedizione proprio per iniziare una buona quaresima, che sia proprio una conversione e dove ci sia anche una confessione molto significativa. Benissimo. Allora, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi tutti e sul nostro desiderio di conversione e rimanga sempre. Sì.